Letture di Radio 24. È uscito nei giorni scorsi nei cinema inglesi Author, J.T. Le Roy, un documentario sulla più grande truffa letteraria di tutti i tempi. Agli inizi dei 2000, l'autore americano, un ragazzo poco più che ventenne, aveva pubblicato Sara e Ingannevole il cuore più di ogni cosa, due bestseller che attingevano a piene mani dal suo passato di abusi sessuali, inganni, droga, crimine e problemi in famiglia. Dal secondo, Asia Argento ha tratto il suo omonimo film del 2004, presentato a Cannes in quello stesso anno. Con la Argento, come con dozzine di altri personaggi dello spettacolo di caratura mondiale, da Madonna a Nancy Sinatra, da Winona Ryder a Lou Reed, J.T. aveva sviluppato rapporti intimi e corrispondenze private frequenti e continuative. «Gli voglio davvero bene, è un amico», diceva la stessa figlia del regista dell'horror nel 2005, parlando di uno dei volti più ambiti del panorama culturale di quegli anni. Eppure, nessuno sapeva veramente chi fosse J.T., acronimo di Jeremiah Terminator, un nome evidentemente fittizio. Era lì di fronte a loro, con la sua lunga parrucca bionda, i suoi immancabili occhiali da sole e la sua timidezza ai limiti del patologico, ma non c'era una persona che lo conoscesse davvero. Tra le altre cose, il celebrato autore, in quegli anni così famoso da essere tradotto in diversi paesi, partecipava a letture e presentazioni con una certa Emily Frazier, una donna più attempata che vestiva in maniera eccentrica. Due inchieste uscite sul New York Magazine e sul New York Times all'inizio del 2006 sono infine giunte alla verità. J.T. Le Roy, quello pubblico, era in realtà Savannah Knoop, una ragazza 25enne. Savannah, a sua volta, era sorella di Geoff, il compagno di una donna ebrea newyorkese di nome Laura Albert. La Albert, figlia di due insegnanti di Brooklyn, a fine anni 90 si era trasferita a San Francisco, coltivando il suo sogno di diventare una musicista, finendo però a lavorare in una linea di telefoni erotici. Laura Albert, che da piccola aveva avuto un'infanzia difficoltosa, fatta di violenze sessuali e disfunzioni alimentari, in quegli anni aveva sviluppato l'abitudine di chiamare i numeri di protezione dei minori con la voce tremante di un ragazzino, spesso cambiata in una gamma di personalità diverse, ognuna con la sua storia. Il grande autore J.T. Le Roy era nato così, su consiglio di un terapista che non aveva mai visto la persona a cui stava dando consulto psicologico. «Scrivi la tua esperienza», gli aveva detto. Da allora, quello dell'autore timido e introverso con l'accento della Virginia era diventato un brand. Film, libri, presentazioni, comparsate e tutto ciò che si può immaginare. Un articolo apparso sul Guardian per l'uscita del film ripercorre le tappe principali del grande inganno portato avanti fino al 2006 da Geoff Knoop, sua sorella Savannah e Laura Albert, la vera autrice che si nascondeva, rimanendo bene in vista. Nel documentario viene presentata la versione di Laura Albert che di questa esperienza dice: «Ho scritto la storia di Jeremy e l'ho pubblicata come fiction, e chi ha avuto interesse a leggerlo ha avuto fra le mani un vero libro. Dalla rivelazione ho preso contatti con sempre più persone che hanno capito il bisogno di nascondermi che percepivo, come avere qualcun altro ha liberato la mia voce». Il pezzo del Guardian che riprende la storia arriva a un interrogativo fondamentale. C'è differenza tra la fiction onesta e quella disonesta? Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il documentario sulla più grande truffa letteraria di sempre, pubblicato il 21 luglio sul sito della rivista Studio. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Letture di Radio 24. In questa estate che sta per finire, forse c'è ancora qualcuno che deve partire per le vacanze e non ha ancora deciso dove andare. La stessa cosa accadeva ad Achille Campanile, scrittore e drammaturgo noto per il suo umorismo surreale, che in un articolo pubblicato il 30 giugno 1950 sul Corriere d'Informazione raccontava i dilemmi di Giorgio, prototipo dell'indeciso cronico di fronte alla scelta del luogo di villeggiatura. Sarò un indeciso dalle rapide decisioni in rapporto con la mia indecisione. Sapendo d'essere un indeciso, mi affretterò a decidere. Mai si vedrà un indeciso più deciso di me e mai deciso più indeciso. Decisamente. Debbo scegliere la villeggiatura. Che cosa faccio? Ora è tardi per scegliere. Decido di decidere domani. Assolutamente. Fermamente. Anche questa è una decisione. No. Pensò subito. Volontà, agire, senza rinvii. Decido senza rinvii. Dove decido di andare? Non importa dove. Se mi ci metto a pensare, non decido più. Andrò in un sito qualunque. L'essenziale è che mi muova. Pensò di fare la valigia. Ma per partire, disse, dovrò almeno sapere dove vado, non foss'altro che per fare il biglietto. Allora vediamo, mare o montagna? La malattia dell'indecisione lo riprendeva. «Ma che sto a perder tempo?» pensò. «Potrei fare un sopralluogo nei vari siti e fermarmi dove mi conviene. Ma se io mi fermo a un certo punto credendo di aver trovato e invece l'ideale veniva poi? Farò l'intero giro e dopo tirerò le somme. Presa questa decisione, si sentì meglio. Perché non bisogna credere che non soffrisse ad essere indeciso. Gli capitava di perdere bellissime occasioni. S'amareggiava della propria indecisione. Disse a se stesso: «Ora vado a dormire e domani senz'altro mi metto in treno». Sentì d'essersi liberato da un peso e a letto ripeteva a se stesso con intima soddisfazione: «Domani». Ma a un tratto nel buio trasalì. «Domani», disse ad alta voce. Andava a finire sempre così. Rimandava tutto al domani e non si decideva mai. Ora doveva decidersi se voleva guarire dall'indecisione. Si alzò, accese la luce e cominciò a vestirsi con frenesia. Subito, subito alla stazione. Non c'erano treni a quell'ora? Poco male, avrebbe aspettato. C'è la sala di attesa per questo. Quando era già quasi vestito, si fermò. Una domanda s'era presentata alla sua mente. Ma perché prendere questa decisione a proposito della villeggiatura, d'una cosa di scarsa importanza, quando doveva rifarsi tutta la vita? Era l'alba. S'accorse d'aver consumato la notte a pensare. Si sentì stanco. Partire, disse. Sta bene, ma non è necessario farlo senza aver dormito. Sconquasserei sempre più la mia vita. Partirò dopo essermi riposato. No, sapeva che se così avesse fatto, al risveglio avrebbe cambiato idea. Agire, ripeteva dirigendosi alla stazione nel polverio della mattina assolata, fra i carri che rotolavano e il barbaglio dei tram. Agire senza perder tempo nell'indecisione. Fare, ecco, io adesso parto. Non so nemmeno dove andrò. La mia volontà afferra il mio corpo esitante e, ordinato il silenzio alla riflessione, lo trascina alla stazione. Gli farà mettere il piede sul montatoio d'un vagone e lo farà salire. Era arrivato alla stazione. Per essere padrone di me stesso, concluse, debbo essere schiavo di me stesso. Difatti ecco che mi sto trascinando verso un treno senza nemmeno sapere dove mi porterà. Ecco che metto il piede sul predellino. Su, si fermò. Non è follia questa? Si chiese. I viaggiatori salivano, si salutavano, si sistemavano negli scompartimenti. Un ferroviere passò gridando «In carrozza!». Il treno si mosse. Giorgio era ancora in tempo. Il convoglio camminava pianissimo. Giorgio avrebbe potuto molto facilmente saltare sugli staffoni, aprire uno sportello e partire. Ma non voleva prendere una decisione irrimediabile all'ultimo momento. Fu soltanto quando il treno ebbe accelerato l'andatura che egli si decise. Un cieco impulso di partire, un'ansia irragionevole, lo presero. Si mise a correre dietro al treno a gambe levate, cercando di raggiungerlo. Troppo tardi. C'erano altri treni. Ma Giorgio era demoralizzato ormai. S'era assuefatto all'idea di partire con quello e l'aveva perso per la sua stupida indecisione. «Per oggi», mormorò schifato di se stesso, «m'è passata la voglia». Aggiunse, avviandosi verso l'uscita, «sarà per domani». E concluse, «forse». E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Achille Campanile 1950, la vacanza immobile dell'indeciso cronico, pubblicato originariamente il 30 giugno 1950 sul Corriere d'Informazione e riproposto sul Corriere della Sera del 3 agosto. Il Veneto è la mia patria, scriveva Goffredo Parise in un racconto pubblicato all'interno del libro Veneto barbaro di muschi e nebbie, scritto a quattro mani con il fotografo Lorenzo Cappellini nel 1987 e ristampato ora dalla casa editrice Minerva in occasione del trentennale della scomparsa dello scrittore vicentino. Do alla parola patria lo stesso significato che si dava durante la Prima Guerra Mondiale all'Italia, scrive Parisi, che prosegue. Ma l'Italia non è la mia patria e sono profondamente convinto che la parola e il sentimento di patria è rappresentato fisicamente dalla terra, dalla regione dove uno è nato. Sebbene esista una Repubblica Italiana, questa espressione astratta non è la mia patria e non lo è per nessuno degli italiani che sono invece veneti, toscani, liguri e via dicendo. Sono nato a Vicenza, una città di pietra grigiasta dalle colonne spropositate che in molti punti sembra finta, fatta di magnifiche quinte teatrali che si riassumono infatti meravigliosamente nel Teatro Olimpico di Andrea Palladio, che però è di legno ed è un teatro. Anche Vicenza lo è, e non è mai stata per me una città, ma appunto un teatro senza nome, in tutte le sue vie, grandi e piccole, grigie, umide e leggermente muschiose. In questo teatro ho ambientato 5 miei romanzi, senza mai far riconoscere direttamente la città, perché appunto la vedevo o la ricordo come un teatro in cui si può cambiare commedia, ma non scenografia. È fatta di scorci, di angoli, di improvvise colonne bianco-grigie, lievemente funerarie e grosse come alberi tropicali. Non è gentile, graziosa e fantastica come Venezia, ma sempre fitta e alle volte solenne, appunto, come le foreste tropicali. Il resto, la parte per così dire umile, è invece campagnola. Sono nato, cresciuto e vissuto a Vicenza fino ai 18 anni, e poi a Venezia, e poi a Milano, e poi a Roma, e poi nel mondo. Mi è bastato poco per eleggere nel mio animo Venezia capitale del Veneto, ed è di quella città che mi sento figlio, ma non interamente. Quando vedo scritto all'imbocco dei ponti sul Piave «Fiume sacro della patria», mi commuovo, ma non perché penso all'Italia, bensì perché penso al Veneto. Non ho mai combattuto come altri possono aver fatto questo sentimento, perché è veramente il più forte. Ne amo particolarmente i veneti per il solo fatto di essere veneti. Ci sono i buoni e i cattivi. Per lo più sono piuttosto ignoranti. Non mi sono particolarmente simpatici. Trovo più simpatici altri di altre regioni. Ho pochissimi amici veneti, ma il Veneto resta la mia patria perché vi sono nato, semplicemente. Il mio sentimento è lo stesso di un contadino che è sempre rimasto lì e ha la sua terra e la sua falce preferita che gode a rotare cavandone suono brillante. E quello che avete ascoltato era un estratto dal libro di Goffredo Parise e Lorenzo Cappellini Veneto barbaro di muschi e nebbie, Minerva Editore, pubblicato il 27 luglio su Il Fatto Quotidiano. Il nostro cervello, oltre a ricordare o non ricordare eventi passati, è anche in grado di individuare i prodotti che accrescono l'immagine sociale e a stabilire quindi cosa sia di tendenza. Una recente ricerca americana dimostra che essere fighi non è poi qualcosa di così aleatorio, ma si può calcolare studiando gli effetti di alcune immagini sul nostro cervello. È quanto hanno fatto due ricercatori dell'Istituto di Tecnologia della California usando la risonanza magnetica funzionale per vedere come reagisce il cervello quando ci vengono mostrati oggetti considerati più o meno cool. Ad attivarsi è la corteccia cerebrale legata alle emozioni e alla percezione di sé, producendo reazioni opposte dalla gratificazione al rifiuto. Nel loro libro intitolato Cool, i due scienziati spiegano come un simbolo possa muovere l'economia. L'essere cool diventa un valore economico che il nostro cervello individua in prodotti che accrescono la nostra immagine sociale. Ecco, come un bene astratto legato allo status, può giocare un ruolo centrale nei nostri comportamenti, guidando i nostri consumi. Ciò che percepiamo come cool aumenta la nostra autostima, dunque per averlo siamo disposti a spendere. È dopo la Seconda Guerra Mondiale che cool prende il significato di figo, di tendenza. Il capo di abbigliamento cool per antonomasia diventano i jeans, quelli della gioventù ribelle, indossati prima dal tenebroso Marlon Brando nel film culto Il Selvaggio e poi da un annoiato e strafottente James Dean in Gioventù bruciata. Erano stati lanciati dal marchio Levi Strauss & Co. nel 1873 come pantaloni da lavoro per minatori e cowboy. Ma la popolarità arrivò nei 50s. Indossarli significava vestire i panni del ribelle pur rimanendo a casa con mamma e papà. E se nel passato per essere cool bisognava andare contro le regole, essere belli e dannati alla Steve McQueen, oggi non è obbligatorio. Rimane però costante il fatto che la coolness si può comprare, può essere cara, ma è democratica. Gli occhiali fuori misura di Angelina o la felpa di Jovanotti sono a portata di tutti perché a contare non è il loro valore effettivo, ma ciò che rappresentano, il loro peso simbolico. E questo nessuno più di Steve Jobs l'ha capito, facendo di Apple uno dei brand più cool dei nostri anni. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Raffaella De Santis, Dimmi cos'è cool, da Repubblica del 2 agosto. Bari, orari fissi per il pasto, ciotole usa e getta, cibi preferibilmente secchi. È l'ABC dei Gattari, messo nero su bianco dal comune di Bari. Sarà un tesserino di riconoscimento, rilasciato solo dopo la sottoscrizione della Carta dei diritti e dei doveri, e che identificherà gli appassionati che si prendono cura dei randagi. Gli operatori delle colonie feline, come li definisce Palazzo di Città, potranno accedere tesserino alla mano in cortili, condomini e giardini per dare da mangiare ai gatti, a patto però di rispettare le condizioni. Vietato prima di tutto lasciare cibo sotto i veicoli parcheggiati per l'incolumità dei mici. I contenitori, rigorosamente usa e getta, vanno posizionati al riparo dal sole per evitare cattivi odori dovuti alla decomposizione dei cibi, meglio se croccantini. Tempo a disposizione per consumare la razione di cibo, massimo un'ora. Solo le ciotole di acqua possono rimanere 24 ore. E a fine pasto la pulizia è d'obbligo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesca Russi, Non dire gatto se non rispetti le regole, dal venerdì di Repubblica del 29 luglio. Sometimes when I'm all alone, people I have known come to mind. People you songs I sing. Old friends, strangers I have seen, lovers who have been and have gone, others will always live. Somewhere in the words of my song, these are the songs I sing. I hope they'll do. These simple songs to give you. And so, if you want to know which of all these people is me, look around and there I will be. Hidden in the song.